24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Ben ritrovati da Valeria De Rosa a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. In primo piano la visita di Angela Merkel in un'Atene blindata. La cancelliera ha detto che molto è stato fatto, ma molto resta ancora da fare. Vorrei aumentare l'entità degli aiuti, ha aggiunto, ma è necessario aspettare la valutazione della Troika. Atene è pronta a rispettare i suoi doveri, ha ribadito Samaras. In evidenza anche la Tobin Tax, la tassa sulle transazioni finanziarie, dopo che 11 Stati membri hanno manifestato la propria disponibilità. E poi il tira e molla sulle trattative per la fusione tra EADS e BAE System. Infine le Pussy Riot, in carcere in Russia per la preghiera anti-Putin, ora fra i finalisti del premio Sakharov 2012. La visita di Angela Merkel in Grecia, un viaggio che doveva servire per appianare le tensioni con il governo greco, un messaggio di fiducia. La cancelliera ha incontrato prima il premier Samaras, poi il capo dello Stato Papoulias. I progressi fatti sono enormi, ha detto la Merkel, ma resta ancora molto da fare. Sono qui come amica e partner della Grecia. Samaras ha dichiarato che il paese rispetterà i suoi doveri e resterà nell'eurozona. Ma in piazza Sintagma i greci hanno manifestato tutto il proprio dissenso contro la politica di tagli e contro la stessa cancelliera, simbolo dell'austerità che sta travolgendo il paese. Il commento di Vittorio Darold del Sole 24 Ore. Il problema di fondo è che i greci accusano proprio Angela Merkel di essere arrivata troppo tardi, che di aver fatto incancrenire la situazione e di essere poi arrivata troppo con una severità eccessiva, quindi con un piano di austerità che effettivamente sta mostrando tutti i suoi limiti. In sostanza i greci non ce la faranno, hanno chiesto ancora 2 anni di proroga e questa è l'ipotesi più probabile. Nel Figaro, in un'intervista al Figaro, il ministro cipriota delle finanze ha ammesso che probabilmente a novembre si dovrà andare al Bundestag e la cancelliera Merkel dovrà chiedere aiuti, nuovi aiuti per la Grecia, per Cipro e probabilmente per la Spagna. E quindi è tutta un'attività dilatoria il cui unico scopo non è tanto quello di convincere i greci, che probabilmente non saranno mai convinti, ma di convincere i tedeschi. Ci spostiamo in Spagna, dove la Croce Rossa si appresta a lanciare un appello per aiutare la popolazione afflitta dalla crisi economica. Con la Dia de la Banderita, l'organizzazione chiederà aiuti per i 300.000 indigenti stimati nel paese. Prima della crisi economica che attanaglia la penisola iberica, la Croce Rossa si occupava principalmente di immigrati, ma ora, con una persona disoccupata su 4, sempre più famiglie hanno necessità di generi alimentari. Più vicina la Tobin Tax, la tassa sulle transazioni finanziarie. 11 paesi, fra cui l'Italia, sono pronti a far scattare la cooperazione rafforzata. L'annuncio all'Ecofin in Lussemburgo. Beda Romano, corrispondente del Sole 24 Ore. È un'operazione ambiziosa, la definirei in questi termini. Adesso abbiamo 11 paesi che sono pronti ad adottare questa tassa. La palla passa alla Commissione europea, deve presentare un proprio progetto. Ricordo che la Commissione aveva già presentato una proposta alla fine dell'anno scorso, immagino che la vorrà in parte rivedere e discutere a un Ecofin che si svolgerà in novembre. Allora, perché questa operazione vada in porto non è necessario soltanto un accordo fra gli 11 paesi che hanno deciso di adottare in principio questa imposta. È necessario anche un voto a maggioranza qualificata da parte dei 27 membri del Consiglio Ecofin, che raggruppa i ministri finanziari dell'Unione. Non credo che debba per forza esserci un problema in quel frangente, però è un passaggio cruciale. Quindi ci sono 2 aspetti da risolvere. Prima di tutto bisogna trovare un accordo tra gli 11 paesi e poi bisogna avere l'accordo di una maggioranza qualificata dei 27. Il presidente della BCE, Mario Draghi, ha parlato ieri all'Europarlamento. Sul futuro dell'Eurozona restano rischi, ma ci sono anche motivi di fiducia. Lo ha detto il presidente della BCE, Mario Draghi, nel suo intervento all'Europarlamento. L'economia europea e il suo sistema finanziario continuano a trovarsi di fronte a tempi impegnativi, ma, ha sottolineato Draghi, ci sono anche ragioni per avere fiducia. Il programma di acquisto di bond della BCE fornisce all'Eurozona una rete di protezione pienamente efficace per evitare scenari distruttivi. Draghi ha anche sottolineato che per una ripresa economica serve rivitalizzare l'erogazione di credito. A questo proposito il governatore ha detto che è molto importante che entri in vigore, come previsto il 1 gennaio 2013, il meccanismo unico di supervisione bancaria europea. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. 219 regioni e città europee, 6.000 partecipanti e 600 speakers sono i numeri degli Open Days delle regioni europee che proseguono a Bruxelles. Uno dei temi al centro di questa edizione è l'importante negoziato per i prossimi fondi strutturali 2014-2020, che tocca da vicino numerose regioni italiane. Al microfono di Sergio Nava, Gianluca Spinaci, membro del gabinetto del segretariato generale del Comitato delle Regioni, spiega quali sono i nodi principali del negoziato. Ci sono alcune linee fondamentali che riguardano il tasso massimo di intervento dei fondi strutturali, quindi delle politiche regionali, che è stato fissato dall'ultima proposta al 2,5% del PIL nazionale. Questo è un dato che interessa soprattutto gli stati dell'Europa centrale e orientale. Un secondo dato è il regime d'aiuto per le regioni. In particolar modo la proposta attualmente sul tavolo dalla Commissione europea prevede delle regioni meno sviluppate e quindi in fase di convergenza con un PIL pro capite fino al 75% della media dell'Unione europea, delle regioni in transizione che stanno quindi trasformando la loro economia ma non sono ancora arrivate a una fase di sviluppo avanzato con un PIL pro capite fra il 75 e il 90% della media europea, e le regioni più sviluppate, in Italia corrisponde appunto al centro-nord, in linea di massima, con un PIL pro capite sopra il 90%. Il dibattito riguarda in particolar modo le regioni in transizione, si tratta di una proposta nuova, di una nuova categoria, e alcuni stati che contribuiscono maggiormente al bilancio dell'Unione Europea sono contrari all'introduzione di questa nuova categoria. Francia e Gran Bretagna avrebbero superato i loro diverbi sulle partecipazioni pubbliche nel gigante globale di difesa e aerospaziale che nascerebbe dalla fusione della franco-tedesca EADS con la britannica BAE System. Secondo France Press, che cita fonti vicine alla questione, Parigi e Londra si sarebbero accordate per limitare al 18% la quota franco-tedesca nel nuovo gruppo. Resta da chiarire la posizione di Berlino. Oggi scade il termine imposto dalle normative britanniche alle due società per formalizzare le loro intenzioni con un piano preciso, oppure rinunciare all'aggregazione per un periodo di 6 mesi. Oggi la Commissione europea dovrebbe dare il suo via libera affinché l'Albania diventi ufficialmente il nuovo paese candidato all'adesione all'Unione, ma quello di Bruxelles sarà un sì condizionato. È quanto riferiscono fonti comunitarie alla vigilia della pubblicazione del rapporto sull'allargamento, secondo cui Tirana, che ha fatto domanda di adesione all'Unione dei 27 ad aprile del 2009, potrà conquistare il nuovo status, ma solo sulla base di una serie di condizioni legate al processo di riforme politiche in corso nel paese. Le Pussy Riot, finite in carcere in Russia per la preghiera punk anti-Putin nella cattedrale di Mosca del Cristo Salvatore, sono fra i 3 finalisti del premio Sakharov 2012, assegnato ogni anno dal Parlamento europeo per ricompensare personalità distintesi nella difesa dei diritti umani e della libertà d'espressione. Le proteste di queste giovani donne, il loro arresto e la successiva condanna a 2 anni di campo di lavoro hanno focalizzato l'attenzione del mondo sull'assenza dello Stato di diritto in Russia. Questo è quanto ha spiegato l'eurodeputato tedesco dei Verdi, Werner Schulz, che fa parte dei 46 parlamentari che hanno sostenuto la candidatura delle musiciste. Il secondo finalista del premio Sakharov è il difensore dei diritti umani Ales Bialyatsky, imprigionato in Bielorussia. Gli eurodeputati hanno selezionato anche l'avvocato Nasrin Sotoudeh e il regista Jafar Panahi, che lottano per la libertà di espressione in Iran. Il nome del vincitore, che riceverà 50.000 euro, verrà annunciato il prossimo 26 ottobre. Ed è tutto per questa edizione di 24 ore in Europa. Un ringraziamento in regia a Daniele Teruzzi e un saluto da Valeria De Rosa. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.